7. Ascolta e controlla. 1. Le stoviglie si possono lavare in lavastoviglie. 2. Le nozze sono il mese prossimo. 3. Le ferie dei dipendenti durano di solito 45 giorni. 4. Gli spiccioli sono indispensabili. 5. I dintorni della città presentano dei siti archeologici molto importanti. 6. Secondo me, tutti si aspettano le tue scuse. 7. I gemelli servono per allacciare i polsini delle camicie. 8. Oggi i guanti sono necessari perché andiamo in montagna a sciare. 9. D'estate porto sempre i mocassini perché sono comodi e leggeri. 10. Non porto mai gli occhiali da sole.